che gli ho dato giusto il nome e il numero adesso, avanti Giamma. E chi la sta mangiando adesso? Allora Giamma, che devi andare a travagliare. Ehi vabbè, già c'è il telefono acceso, 2 secondi già li può rispondere. Tanto già l'ho memorizzato nel cartoncino adesso. Con tutti e due forse stavo uscendo il test. Cappagà. Ti ho visto su internet facendo il DX con la Spagna. Ah, e non solo con la Spagna, anche con la Russia, se per questo. Se guardi i filmati, ce ne sono anche con la Russia. Poi c'è quello che ho fatto il giorno di Natale con il cane di Giovanna, cazzo. Si è messo dietro, cazzo, ha cominciato a lavarmi tutto, cazzo. L'ho dovuto buttare dalla sedia, ho dovuto alzarmi io dalla sedia e buttarcelo in terra. Già l'ho visto, sì. Ci stava facendo alzare dalla sedia, ci ha dato dietro, gli ho visto tutto. Solo perché c'avevo l'agnello vicino a me, hai capito, nel piatto, e voleva mangiare il furetto, poi si è messo a fianco, si è messo seduto nella sedia, sta aspettando che gli davo le ossa, ha detto adesso aspetti, mangi dopo, gli ho detto. Non si danno le ossa ai cani, ti bucano gli intestini, non gliene dare mai di ossa. Ah, già l'hanno fatto matta, ho gli dentiera che c'hanno, non ti conviene mettergli la mano a tutti i figli. Ai cani si danno solo gli stinchi dei buoi da rosicchiare, basta. Non si danno le ossa perché sono appuntite e li bucano le budella. Già lo so, le cose non gliele ho date, infatti, ho dato solamente il pezzo della gamba, hai capito? Scappano le zampe gli agnelli, che a me non ne hanno. Avanti, ho capito. Adesso lo ruzzigheggia un cane. Corra, non si danno le ossa, le fanno male, gli bucano l'intestino e lo stomaco. E già appunto, dicono i veterinari, non è che lo sto dicendo io. Si danno solo quegli stinchi, quelli grossi, però quelli del bue, ma cani grossi tipo Rottweiler, quelli lì gli danno gli stinchi e stanno tutta la giornata ruzzicheggiando, in effetti. Già, dillo a Romeo, che stasera ne la sono a dono d'osso. Dillo a Romeo, a ver se sarà ruzzicato. Buonasera a tutti quanti, tutti quelli che sono in ruota. E gli altri si muovono a dare il cubattone. Perché tu le ossa li dai? Ah, di quelli grandi, grossi che fai a brodo. Sì. Ma come tu la? Quelli sì, quelli già si danno. Io non gliene do perché in casa si impiastra e si è già tutto. Però quelle grosse non gli fanno nulla. Ma quelle fine, quelle del pollo, quelle del coniglio, quelle dell'agnello li fanno male. No, di quelli non gliene do io. Infatti mi hai sbagliato. Cioè tutto ruzzicato, ha fatto a 100 un pezzo, ce l'ha mangiato. Lo vendono pure. Quello di coso vendono? Quello del maiale. Quello lì vendono. Lo vendono anche proprio in questo di animale, già confezionato a fare un cane. Gli dava quelle ossa lì da mangiare, le riportava lui alla macelleria oppure quando gli sossavano il prosciutto. Infatti, ciò che quello lì bisogna stare attenti che ci fa di una punta, il veterinario mi ha detto. Gli bucano le budella, quelle piccole. Come sta andando con questo apparecchio? Che era tanto che non l'attaccavo, dai. Un poco alto di coso, sì, di radio, un po', io aggiungo abbassare, però sei sempre alto. Guarda, vedi? Ma voi già ti sei calmato. Adesso l'ho abbassato, dai. Se la metta manetta è così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, così è normale, dai. Poi io sono dentro nella Freganari. Lo stavo usando questo. Gli avevo che non lo attaccavo, l'ho già attaccato stasera, ma non era da molto che non lo usavo. Come fa a sentirmi? Mi senti perché siamo vicini ad aria, si vedono le antenne, come io sento a voi, sia a te che a Giovanni, mi sento, mi splatta. passano, ma purtroppo perché siamo vicini, basta passare lo squelch. No, io avevo il volume un pochettino alto, l'ho abbassato. No, c'ho l'attenuatore, io metto l'attenuatore. Sì, intende pure a me. Molte volte passa l'attenuatore, passa pure. Appaga. Ti sento un po' cupo, non lo so se dipende dal mio apparato, però tu lo sento perfetto. Anche ti sento un po' cupo tu. Brava, come mi senti? Adesso è perfetto. Questo mi sono allontanato, ero vicino al microfono. Sono che nero lo coso e mi sono avvicinato. Devi parlare piano e allontanarti, perché se no si arrivi tutto. E perché sei che è strano? Perché si sente così? Boh, pensavo che fosse da me. Però poi ha parlato Antonio ed era chiaro chiaro. No, no, già sono così. Tanto ancora ci sei. Già sono qua, già. E lo so che sei stracco. Non lo so che sei stanco e non vuoi parlare. No, no, già, adesso è troppo mi alto che hanno a mangiare. E poi ti do la medicina, tu, mio. E che adesso mi dici tutto strappato. E che medicina è? Se vuoi ti do la medicina, tu che ti dici sul morale dopo. Manuele, passiamo a qualche microfono lì qualche giorno, ti racconto. Che cosa te lo lascio? Io adesso come mattina ci esco alle 5 e mezza. Ehi, me lo vuoi passarmi pure da voi, me lo vuoi passare all'otto, quando vuoi. No, ci esco domani mattina alle 5 e mezza, casomai, e vabbè, domani sera rientro alle 7 e mezza. Se compreso uno da cosa hai detto? Aspetta, adesso? No, come lo muovi, cercano come lo muovi. Dove sei che si muove la capsula dentro, si muove. Fai già adesso. Sicuramente. Ma secondo, come lo muovi si muove la capsula? Ma bisogna incollarla. Quello con la voce di là sopra. È così, sì. Sicuramente c'è la capsula che si muove. Però come si muove da quel tremolio ti dà? Ancora non sta facendo. Ma attacca da molti di rivirare. No, cazzo, ce l'ho staccato una poca. Cazzo, perché è sensibile questo microfono. Vabbè, sensibile, e poi deve essere che la cappa ce l'ha a conto Giulio. La cosa è già. Io è così. Questo è un bel apparecchio. Ecco male. Ecco se. No, niente, i picchi positivi sto a guardare. Gappa gappa. Non è Satan. Che sta poco sensazionale, no? Tu che fai che stai usando adesso? Per darmi un controllo di segnale. Io? Cosa c'hai, Smitter che arriva più di 9.30? No, arriva 9.30 e si blocca lì. Poi si sfascia la lancetta. No, adesso non si faccia perché arriva lì e si blocca. Ecco cos'è. A me lo sì. Ah, è Franco. Buonasera. Ciao Fra, buonasera. Ciao Arturio, buonasera, buonasera anche a Gianni e chi altro c'è qua? Ciao Manuele. Ciao Frank. Ciao Fra. Ah, mi sentite? Sì. A tutti ha salutato, ma qui a me, la sicuro primo che l'ha già salutato. Come si vede che stasera si è alluvionato? Ciao dottore, buonasera. No, alluvionato, sto facendo cosa, ho finito poco fa. Capito, ero giù in campagna. Era tutto benissimo, si è tra così. Vabbè, lasciamo più lì. No, di, perché? No, niente, che cosa vuoi che ti dica? Che c'è il tracco? No, ho detto, mi sentite, sì. Se ti stiamo parlando vuol dire che già ti sentiamo. Ok, dai, già va bene. Riprendi, Manuè. Non si intendi, no. Ciao, Natali, buonasera. Buonasera. Eh beh, vai ma ringrazio. Eh beh, sì, sì. Beh, Muggine! Non senti, se te non mi seguo però. Ma venne niente, eh? Tu, Giannini. Eh beh, già. Noi, Lucrezia, come va? Ma sta venendo niente in ascolto, gabobo. Ciao, amore, sto bene, tu come stai? Gianni, tutti curare ci vanno, insomma. Bobo. Anche te devi andare a vedere se per Gian Maria. Arecci di buco. Arecci di boi, buco. Voglio mandare di merda, ragazzi, per carità. Sì, troioso, non dico che sia mal di gola. E Caterina fa uno. Ciao Luca. Chi è? Antonio sono. Vabbè, Antonio. Oh, cazzo, ma non mi leggevo sta pennina. Cioè, stavo operativo. Lo voglio cambiare. Se non me la legge, mi dice... Aspetta, Natale, mi dice... Perché la pennina l'ho messa, ma... Mi dice, c'è un problema con questa unità. Analizza l'unità. E che si va ad analizzare? Balle. Come si fa ad analizzare? Lo scoprirai. Ma qua dice minacce, nulla. Non so, vabbè. Lo scoprirai di ripresa. Manuel, ma che se scendi tutto quanto dovrebbe un cagiaro? Ma cos'è il microfono, Ma lampadino. Non hai i microfoni. No, non è altro. Ancora adesso? Come va adesso? A volte va bene, a volte ti sento tovracchiante. Ragazzi, ne so. Non c'ho tempo io di stare di aprire niente. Buscati un microfono normale. Ah, se riesco devo mettere a tavolo, un MP più 4. Oh, ya dai, bianco per me che me ne alzo, vai. Oh, via, che so che era a letto, bianco per me, là. Ma c'è a letto? A letto, vero, ma chi non si intende? Ah, penso che c'è a letto solo. No, ero a letto, vero? Sono qua a stazione 2. Che si sente che è il portatile. Sì, va bene. Gappa gappa, io già un grido, è un amore. Andava. E adesso com'è o fa? Adesso va bene. Questo è il suo. Poi esci che me ne invece va. E lasciati quello, Manuel, se va bene. Sì, questo qua è il suo. Ma che baratino stai usando? Un index? Per quello che me l'aveva dato coso, Marino, quello del 34. Ma non c'è la stazione base. Che cazzo Marino l'avevi data? Ah, ma tu ti prendi tutto, tu. Quella te la devi tenere, raga. Che avevo data quella lì, l'avevo data a Torino. E non è altre stazioni base? No, non ne ho più. Beh, Morelli! Riprendi tu. Franco! Come mi ricevi? Abbasso un po' tu lì. Così va bene? Lascialo così, già va bene. Manuel, come siete tu? Sembra che sei tanto ammalato, dottor Lì. Uscivi meglio prima, come mai? A me mi piace il barattolo pieno di birra. Usciva meglio prima, lo c'era già male il microfono. No, lo sciure. Era più bella prima quando ti avevo ascoltato la prima, giorni fa. Forse la mattina può scaricare. Perché sembra che sei già ammalato. Più bello è. Andiamo bene, Bobo. Oh, fra mica sono ordinato quella roba, Kappa. Andate. Ok, quando arriva poi ti chiamo. Figlia. Perché che microfono stavi usando prima, Tony? Lo sciure. Ah, va bene, io ti ascolto bene, boh. Ma lei, se vuoi mettere il microfono a mare, mi. Cos'è? Ma devo mettere il microfono a mare. Non ti ho capito. Ma ciao, mi. Devo mettere il microfono a mare. No, va bene, solo che prima era un po' più, ce la faccia più grossa la modulazione, adesso sembra che sei dentro malato, metallica, dai. A me piace metallica. Oh. Non so questa cosa. Però. Non si intendi, no. Tutto a scariche. Tanto stai uscendo male, ciao. Avete parlato in due, senza fracca e buco. ore quanto ti sto arrivando giù da te? 9:30. Cavagliato. Spera tuo passaggio fa che voglio vedere quanto sei arrivato al locale. Ora 2, 3, 4, 5, 6. Allora, invece locale qui a Santiago 9. Poi c'è MIT Santiago 9:10, Dix 9:30. E già va bene allora, dai. Che cazzo, tu cade un DP, no? Che a voglia che va bene. Tu invece tu, mi stai più basso di Franco, 7:07, col locale. Col locale. È normale, ma appena appena. Ho usato pochissimi watt, sto usando. 9:10 locale, lo DX proprio. Sì, vabbè. Franco arriva sparato. Guarda adesso Tony, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ora! Sacca! Bene, va così. Terra. Io mi sono vedo un bendi. Con lo scala. Riprendi i gialli. E fate poco casino. Emanuele, a proposito, la massa di rifare Emanuele. È successo. Tu mi hai condito l'influenza. Io, cazzo io. Almeno è tua zia, è perché non te ne sei accorto che Emanuele si è preso la pastiglia che c'era mai di testa. E tu me ne condito. E se avessi cambiato la situazione, no? Anche io cavo bene, non ero forzato. A me mi ha fatto lo scherzo, ma come fa andare in casino video? Ci sono in casino di tossica. Già, ma vero se cambia la situazione? Sempre barattoloso. No, questo è un altro apparecchio. Prova. Oltre prova. Adesso vedi, in locale si sentiva come fosse aumentato. Capo, minimo 9:20, normale. DX sì, 9:20. Già va bene adesso. Io poco fa era minimo poco fa. E già non credo che è così. Oh, Franco! Dimmi, Tony. Qua si è basso di questi batte qua quando ti arrivo. Guarda, questo passaggio 1, 2, 3. È cambiato qualcosa, 1, 2, 3. Sempre uguale il segnale. E allora questo non è dei batti, non ci capisco nulla. Avrei poco di tassi, tassini. 9:20 e Radio 5. Ma noi da te? E da me il segnale lo sai che non te lo posso dare giusto, Tony. Ah, è giusto, ok. E a te Antonio? Un passaggio. Questo era normale, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso cerco di abbassare. Questo è abbassato, 1, 2, 3, oppure non funziona chiudo a zero, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ritorno normale, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma non perché ti serve a 9:25, non perché ti serve abbassare la radio. E basta, allora, come lasciano così, dai. La radio è così, è meglio. Ah, bene, mira. È bel capodanno, tu dico come l'hai passato, a casa. Cappa con gamberoni e trullalino trullalà. Prima da te, io gatto da Mariella, che gamberoni. Non sai che c'avevo in casa io, quindi. Tu trovo a dire, ma lui, cazzo. Io poi sono uscito non ve l'ho dato. E io cosa non vedo, giughetti, io non la niente in burruino, Mi servizio a soffrare. Tu che mi hai fatto giri di notte io. A me la pensione mi stava dando 40 euro al giorno. 40 euro al giorno. Cappa, perché mi stanno dando 1.200 e quindi automaticamente sono 40 euro al giorno, 10 giorni sono 400 euro, 10, 20, 30, 4, 3, 12, 100, 1.200. Ma è poco, È poco, sì. Cazzo 40 euro al giorno? Cazzo mi viene più, si si mau, 30 euro qui, la ricca, se si sta valuta. E sono poco infatti per me, cazzo io ci sono pagato la vita e pagato i tassi. Purtroppo. Stiamo trovati niente io. Ma come ne più lavorare, cioè, bisogna fare il ladro adesso. Certo, viva i ladri, io li appoggio. E se vuole che un consiglio mio mi faccio dare anche poi i soldi da loro. E che cazzo di negro non viene mai che cazzo pigare il cazzo, pigare tutto, pigare. Basta bruciarli, intanto non te ne accorgi quando le mosce sono già niente. Ah, cosa cazzo hai riparato in fronte, dai cazzo bruciarli. Tutto lungo non ci avevo fatto brincare io. Cappa di Rogero, io sono d'accordo con te, tanto io sono razzista, non li posso vedere, io le cazzerei, ma se tutto velocità o grosso parenti e le metteri sotto a fare i strike. Sono schifo lì, cazzo, hanno paura anche di passeggiare i bambini, pensa tu. Perché la colpa è del sindaco di cazzo che abbiamo e in più del prefetto di merda che abbiamo. Cornuto, cazzo non hai visto le strade come sono, fanno piacere le strade, tutta mucchi. Non te ne frega niente, capito? Aspetta che gli diamo il voto quando le cade. Chizzo. Sì, sì, subito. Io la posso vomitare, bu. Ma poi la macchina si sta mazza tra la vita. No, ma noi. Aspetta, devo comprare anche due giunte omogenici e poi la faccio completa del tutto. Tutto nuovo, sia scatola guida, due testine e due giunte omogenici. Ma tu ti sei mancata a circolare così? Esatto, piano piano già va bene, dai. Cazzo già va bene. Falla fare subito, non girare così con quella macchina così. Ho ordinato i giunti. E i giunti li fai quando se li porta. Cazzo, ma falli quello che li devi fare adesso. Sono impegnati tutti. Ma chi te la fa, Pietro? Valentino. Ah, l'appuntamento te l'ha già preso. Sono detto passare entro fine settimana e vince qua a Natale. Ah, andare. Comunque, se fai scambio, ti faccio scambio subito me. Ah? Se vuoi fare scambio con la macchina tua, va bene. Dai, a posto di tutto, tu ne già lo sai, che quando c'è qualche rumorino la porto subito. E anch'io, se non sento tutti i rumori che dico io, non la porto. No, io quando me li ho fatti il tagliare, tutto quanto, dischi, freni, pazzini, di tutto la giovata. Mi ha chiamato uno, ha detto se la vendevo perché la moglie aveva un tre ponte come la mia. E mi fa se gliela, e mi fa se gliela vendevo, sì, basta che mi dai 4.500 ce la do. No, un po' troppo, e allora già me la tengo io. Beh, non fa bene, ce l'ho capito. Cazzo purtroppo, le ho fatte tutti i paraurti, verreciati, c'è chi lega rifatti a nuovo, e non sapevo girare con 4.000 euro. Assolutamente no. Franco! Che macchina è la tua, Manuè? È una Toyota Yaris, ma va benissimo, fra, va benissimo. Le ho fatto verreciare i circhi, i tamburi, gli ho messo i dischi, fatto il tagliando, candele, filtro, olio, la macchina è a posto, metto io già la vista. E vanno bene con le macchine, sì sì, la Toyota Yaris. Ma io c'ho solo quello che devo cambiare, basta, perché il motore mio è perfetto, me. Ma tu devi fare la scatola guida di sta macchina, è un casino. Me. Ci vuole il ponte fra, non si può fare così, no? Beh, ci vuole il ponte sì, per montarla, se no è un casino, come fai? Se non porto a porto rosetto, poi c'è già il ponte. Vabbè. Già si può fare pure senza ponti, ma col ponte è meglio. Fra, è a far sicuro. Ma dire che così, che lo so, fregatene. Ma infatti. Meglio non guardare i piedi. Che con il cato per terra. No, perché poi lavori anche male, capito? Senza ponte è un casino. Lo so. Vediamo, oggi Manuele, non lavori? No, oggi sono di riposo, domani mattina alle 6 ci esco, 5 e mezza, 6 e un quarto ci esco a casa, faccio dalle 7 alle 7 di sera. Te ne pare. Antonio! Eia! Riprendi il tuo microfono. Gappa, signore, sono libero, ho lavorato dal 31 in poi, ho lavorato 7 giorni. Adesso sono libero, non c'è nulla. Vediamo. Pensiamo che cosa settimana, lavoro. Uscirà, c'è un po' di crisi, lo sappiamo, dai. Cioè, uscirà il mondo dei lavori, che. Ma che lavoro fai, Antonio? Ancora non l'hai compreso. Ma già piatti i palchi di musica, c'è roba così, ponti, cibi, audio e luci, mondo. Audio, luci, carico, scarico, faccio un po' di tutto. Capito, lavoro con Rock House, lavoro. Faccio un po' di tutto, l'allestimenti, cose, cioè faccio un pochettino di tutto, capito? Monto le luci. ci monto l'audio, monto quello che c'è da fare, io faccio un po' di tutto. Ma anche se non te l'ho presa niente, quello che c'è sotto bandiera gialla. No, quella è cosa elettronica, no, no, non sono con lui, no. No, perché ce n'è anche uno lì, no, a Predanieto, adesso con i zenni, vicino a Cesaraccio, dai. No, già a Predanieto è capannone, già. E ho capito qual è, sì, sì, un tipo... Lì il padrone vuole un tipo grasso, c'è delle figure di carne in bocca. Barba barbetta bianca e capellino. Ehi, quello zigaro, quando... No, come che non ti stai confondendo con Francesco? No, no, quello è tu, già lo so, vabbè. Francesco, e mi pare che chiama Francesco. No, no, quello fai, quello lì era cose elettroniche, faceva anche dei gruppi elettrogeni, c'ha cioè, tutto. Io sto parlando con... Io sto lavorando con Alberto, con Alberto Paolo, sto lavorando, capito? Sto lavorando con loro, che lui è musicista, suona Paolo, suona con i Tazzetta, è musicista, capito? Ah, io ho capito, infatti Francesco fa gruppi elettrogeni, quella roba lì, sull'elettronica, dai. Prima c'era il service, ma poi pure ha mollato, cosa faceva... Faceva anche lui prima faceva il Tazzetta, faceva il coro degli angeli, un bel di cose, manifestazioni importanti, da, diciamo. Adesso, no, adesso Servizi non ne fa più, ma fa l'elettricista e fa il gruppo elettrogeno e cose. Lo chiamiamo anche noi a fare, a misurarci la corrente, a darci il gruppo elettrogeno e tutto. Vedi, ho capito, sì, sì. Io invece faccio proprio l'allestimenti e cose. L'alghero c'ero anche io, c'ero. Devo fare Ligabue. Ho fatto Ligabue. C'ero anche io che ho partecipato all'allestimento, poi sono venuto a Sassari per preparare, per fare Francesco Renga e NEC. Capito? Vedi, ho capito, sì, sì. Quindi hai piazzato due. Sì, sì, conseguente dalla squadra abbiamo piazzato due. Alghero c'era parecchio lavoro, c'erano parecchi uomini lavorando. Vedi, ho capito. Ma Gianni, quel chi è passato? No, io sono sempre in parcheggio, sto aspettando che mi passate il microfono. Ripeni già. Mi manca di buttare il grammofono stasera. Niente. Vabbè, dai, Antonio adesso c'ha un lavoro che fa un po' faticoso, ma già rende, dai. E diciamo che oltre che faticoso è anche un lavoro pesante quello lì già. Capito? Sì, che cari singasci, chissà quanto misere, con le casse enormi. Questa che l'Alghero, vabbè, l'abbiamo noleggiato, abbiamo usato di K2 acustica. Quelle pesano un bel, pesano. Un impianto costa da 1,5 milioni di euro, non so cosa è stato detto tutto. Certo, una cosa micidiale quando lo senti suonare, cazzo, ma ce l'abbiamo fatto l'Alghero, piazza della pace si chiama, cazzo mi tocco, pumpavano forse questa cosa, poi c'era anche il nostro, il Martin, c'era che faceva i ritorni, faceva, cazzo mi tocco, mi hanno chiamato mia moglie a lavorare, mangiare, che cazzo lavorare. Tanto in mosca tenne due te le porti a casa. Ma lui mi sta facendo una parete tutta di basso, mi sta facendo, mi un po'. Cosa lo organizziamo calcio a casa tua? Anche lui. Se sono qua in mura già. A me, ma se come metti buono ai nomi. Ok, dai, ci sentiamo che mi ha fatto mia moglie. E allora ciao tu, buon appetito, vai. Avanti fra. Ciao Antonio, buon carico e buon tutto, ce la riascolto alle prossime. Vai tu. Ciao Antonio, stammi bene, alle prossime, buona carica. Stammi bene. Avanti. ristorante, il signorino Gianni. Ora, ora si vede la spalla tra il 10 e il 23, da Gentesoli. No, ero, stavo parlando con Gio Maria. Stavo parlando e adesso ha chiuso, che la sa. Sì, un pochino, che un pochino gli dà. I barauri, te le mangi. Sì, non c'è problema, sto scherzando. Ti ho sentito, sentivo questo bisbiglio, e te cos'è, sa cos'è, ci chiama sul periodo di ieri tu fammi i denti. Ma poi ti la che ti esplatteranno gli altri, boh, boh. Hai visto, tu pensi che sono, chiuso lui il gioco, allora già mi senti, vedi che fai, fa radio chi entra. Scappa. Ne ho capito la metà di quello che hai detto, comunque, va bene. Se non parli lontano dal microfono si impasta tutta la voce e si capisce nulla. Scusami, basta! Vabbè, stavi chiudendo. No, anzi, aspetta che io l'ho sollevato a Isetta, vedendo. Guarda a vedere adesso. Parla un po' lontano dal microfono. No, il microfono sono. E adesso va meglio, infatti, è più chiara la voce. Sono a 50 centimetri dal microfono. Adesso va bene, dai. Avanti, Fra. Tu pensa che io sono qua un metro dal microfono? Ho già qua l'ho piazzato con la capo sulla mia. Ehi, cazzo, può che ci fosse. Vedi, questi regali non te li fa nessuno, Fra. Sì, vabbè, mi sono avventato, perché non c'entrava, ho dovuto fare una modifica particolare per farcela stare dentro, tutto lì. Guarda, ti volevo dire un'altra cosa, adesso non mi viene in mente. Hai abitato a Nemi, sì. Eh? Ho detto a Calamari, ci stai andando? No, Fra. Non mi decido, no, non mi viene più la voglia che come prima ero proprio, avevo proprio la foga, adesso sono tutto a dolori e prendere umidità, è un casino. Vabbè, adesso c'è mare buono, la secca di gennaio, almeno una decina di giorni rimane calmo il mare. Ma la mattina non viene, la mattina quando si può andare non fa, qualche seppia la puoi pigliare, ma Calamari Genova di sera tardi, al freddo. Calamari a quest'ora, verso le, quando vai verso le 5, fai dalle 5 alle 10 e poi te ne dormi. E tu andato ci sta? No, non ci sono andato ancora io. Non ci sono andato perché è incasinato, ma ci voglio provare qualche sera. Scappa. Già sono buoni i calamari, maranno, e poi come piace da me frittimi. Io quando vado a mangiare fuori sempre me li prendo i calamari fritti. E vabbè, quelli che peschi freschi è tutto un altro pianeta, non è come quelli che compri congelati. Congelati hanno diverso gusto. Allora so, qualche sera mi organizzo e scendo giù a Stintino, lì, in quelle zone. Quando sono freschi sono dolci dolci, casere, appena cotti, appena fritti, io tanto sono buono. Già lo vedo, che sono buoni. E ieri ho mangiato meglio, prima ne prendevo un casino, andavo tutte le sere. Adesso non ci sto andando perché sono mezzo incasinato. Tutto lì. Vai tu. Fra. Io mi quando è la notte di Capodanno me ne sono fatti. Calamari fritti. Certo. All'indomani certo, sono diventati dolci, e me ne sono avanzati un po' che sono diventati dolci. Ma da voi il colesterolo? La bacchina non la faccia la fascia mira. Come mai? Può stare un po' lontano adesso. Adesso do due pastiglie. Dopo due giorni mi si è abbassato. Ma li hai fatti fritti? Io qualche volta li ho fatti fritti e qualche volta con i piselli pure, come faccio le seppie, sono buone in una testa. Ma io una viagana fritto, certo, ma che barate, una viagana di mangiarli fritti. Si sa che mi forse sabato, speriamo che non ne bigliani dei calamari fritti, perché sennò me devo dire a rivederci. Sono buone anche sulla piastra, fatti sulla piastra, arrosti. Ma se no imbottiti. Imbottiti, forno. No, imbottiti sono sempre, sempre colesterolo. Ripieni, cosa imbottiti? Ripieni, allora, cosa imbottito? Ripieni. ripieni sono buoni, oppure arrosto sulla piastra. Sì, in tutte le maniere sono buoni, basta che siano freschi. Vabbè, io li ho mangiati a Capodanno, ti dico la verità. Li ho mangiati a Capodanno, ho mangiato sei calamari che le si piegano così. Ma io dico la verità, se ti fai un calcolo di freddo, fatti che tutto vada al mercato e me li compro freschi. A Capodanno io ho mangiato tutta roba di pesce. La rana pescatrice, tutta roba così, filetti di tonno, tracce di tonno, tutta roba così ho mangiato, tutta roba di pesce, infatti la glicemia non mi ha saldaruda. Beh, infatti noi puoi stare sempre a mangiare carne, roba grassa, quella fa male, tutto lì. Ma Torino, in quel reti è passato. Sì. Natalino, riprendi. Mi pare che se ne sono andato a mangiare. No, io ho già mangiato. Certo. Ma lo vedi che ha già mangiato, eh? Anche io comunque. Quindi sono a posto. La batteria è carica. No, io ce lo scarica, c'è il buco nell'ozono, che non si può mangiare, ma cubani. Perché queste feste ho mangiato troppo, adesso sono a Ramadan. Tre e mezza, ho misurato la glicemia, perché oggi me lo devo segnare, anche dopo cena. Ho controllato la glicemia ed era a 104, ce l'avevo. Quindi, ho mangiato un arancio pure, pensa un po'. Io con due arance a pranzo ce l'avevo 122. E vabbè, qualcosa in più ce l'hai, però io ho mangiato la pasta con le vongole e più ho mangiato l'arancio, ho mangiato. Alle tre mesi ho misurata e sono a 104, allora bisogna avere i canuzzi. Io invece ho dimenticato di farmi l'insulina ieri notte, stamattina mi sono alzato e ce l'avevo alta, ma mi sono dimenticato di fare l'insulina di notte. Le 20 uomini fa una cosa, fai l'altra, cucina qua, fai là e poi ti dimentichi le cose. Sì, vabbè, ma non è che ce l'avevi alta, no? Anche se vieni a casa, per intendermi, si sente quando è alta. Poi lasciami lì, che ti sto dicendo stamattina ero tutta la notte che andavo in bagno, tutta la notte bevendo e andando in bagno, e non capivo cos'era, è un po' strano. Mi sono misurato la glicemia, mi ha fatto l'iniezione quasi stamattina presto, dai, perché ce l'avevo 250 e qualche cosa. Se non riamo un capo burro di Doria, era dai. Purtroppo a volte ti dimentichi, cosa fai? Magari guarda la televisione, ti addormenti, poi te ne vai a letto senza pensarci e ti frega. E infatti è così. Infatti è così, avanti Fra, Franco è andato a mangiare, a tappasso lui che è andato. No, ha detto che ha già mangiato Franco, mi pare che ha digerito pure. Allora farà da Giorgio Lugani. Franco! E fra poco vado anch'io perché devo portare giù il cane, fra poco li tocca, Guaredo. Me lo portiamo giù. No, io ce lo porto le 9:15, 9:30 lo porto. Ma lui non esiste, lui sa che a quell'ora io lo porto e viene a cercarmi a quell'ora, fa un gugneggia, capito? Romeo, all'altro buon gammagna, alle 9:15, 9:30 lo porto giù, lui già lo sa che è a quell'ora lì che lo porto sempre. E bambino un po' di fredda che sura. Io lo porto adesso alle 8, poi non lo porto più, li faccio da mangiare dopo che lo porto e via. Ma io l'ho sceso alle 4:30 stasera, l'ho sceso, e per quello dopo lo porto alle 9:15, 9:30. Tanto va a giro, mi dice, mi porta Edumi, ti credi, mi porta lui, e mi fa tornare indietro in fretta lui. Quindi è lui che porta a te, non è che sei tu che porti il cane, è lui che porta a te. Allora, quando siamo a Medaglia, lo porto io. Poi cominciate da Miedo. Non sai tu cosa passi. Ma quale c'hai? Quello di tua figlia o il tuo? È mia figlia, non è mio, io non la giugare. È di mia figlia, è testa qua lì. Solo che mi ha lasciato in onda, che da... non lo poteva più tenere. Bella, perché ce l'aveva portato a Londra? Chi li aveva tutti e due? C'era questo qua che la Luffa c'aveva là. E non sapeva. Un giorno sono andata con tu Giulio e la Luffa l'ha trovata il veterinario e lui è tornato indietro. E il lupo, il pastore tedesco, dove ce l'ha? No, non ce l'ha più, l'abbiamo dato a questo qua di Alghero, la lupa. La lupa l'abbiamo data a questo qua di Alghero e ce l'ha questo qua. Verino. Sì, vabbè. Che ore è mezzo fare? Mi è dispiaciuto darlo perché era bellissimo, è un bel cane. Purtroppo quando c'erano delle esigenze diverse è un casino. Tu lo prendi pensando di poterlo tenere e poi magari ti capita lavoro fuori, cosa vai? E te lo porti fuori. Interessante è che abbia un padrone che li voglia bene. Oh. Così, quanti si chiamano? Il pastore tedesco, ma cosa avvicinava, con tutte e due che ci avevo, non si avvicinava con la lupa, si rabbaidava e tirava dritto. Infatti questo qua, ma non mi vedeva a me, che ci avevo tutte e due nel giardino. Giambava Garrera, giambava, se andava dalla sabbia di un marciapiede. Adesso questo che c'è cos'è? La caccia. Ma temi per tardi, teme, ecco cos'è, temi per tardi, le fucilate, teme. Quando mi ha detto, ho fatto vedere un cacciatore, mi ha detto sì, è da caccia, però bisogna abituarlo a Rufusini. E ha detto, vai abituaggiarlo, ci veredesci. Franco! Sono andato a prendere il caffè in cucina, io, capito? Ma quanti di ribiglia la di? Oggi ne ho preso 1, 2, 3, 4. 4 caffè, che tere. E vabbè, non sono tanti, dai. Sì, io ne prendo massimo 2. Uno a colazione con il latte e poi uno dopo pranzo. La notte prima lo prendevo, ma non ne gioco più pigliente. Ma infatti io non sto bevendo troppi. Adesso cerco di diminuire la dose, tutto lì. Ma Natalina, in QRT è passata. Sì, so chi no, mi dà giudizio. Ma non ti sento a parlare, avanti Natalino. Non ce ne voglia, no. Non si intende, no. Non ha chiara di fare il danno, noi c'è una medusa, mette lui. Vabbè, vuol dire che è stanco. Sì, a volte ci sono sere che non ci voglio neanche rientrarci, pensa tu, ma... Lo so, anche a me succede. Io a volte quando sto cantando continuo a cantare e via. Da già a me piace lo stesso. Ogni tanto entro per salutare e cose, però non ce n'è più la voglia di prima, perché quando vedo che non c'è continuità nelle cose ti ribassa la gana, se non vedi che c'è gente. Adesso per dire, la mattina io quando uscivo prima mi mettevo sempre l'antenna nella macchina, attaccavo il baracchino e trovavo gente, ma non avevo più nessuno. Ma infatti già, hai ragione, non c'è più nessuno come prima. Non è mai la candela a spendere più soldi di queste cose, oramai. Vabbè, mi ha chiamato un amico, se lo vuole mettere, gli ha detto, guarda, io non te lo consiglio perché c'è poca gente. E vabbè, a me, io l'ho sempre voluto da piccolo e adesso che posso farlo, lo faccio. Parlerò con la mia compagna, dice, ma parlo lo stesso. Il discorso è quando c'è la passione che ce li hai, magari ti viene sempre la voglia di accendere, di ascoltare, farti la chiacchierata, tutto lì. Certo, non le sto buttando via di certo, tutti mi hanno detto, vendi di dire, chi sono di dare, sai perché me la devo vendere? non mi vendo nulla, tanto poi i soldi finiscono, dopo lo pagherò nell'asso. Già, un consiglio, lasciaglielo mettere che è meglio, almeno siamo molto di più. Ancora sto vendendo un po' di roba se ti interessa. Cosa stai vendendo già? Non sto vendendo niente, sto scherzando. Vai, non vedi nulla, vai. Tieniti tutto, perché poi vai a comprarle e paghi al doppio le cose. Ma io non vendo niente. Così come muore questa stazione. E poi so che le cose mie vanno bene, se poi compri altri apparecchi a seconda mano magari non andare bene. Ah, merda. Infatti, perché non sai mai cosa compareggi. Beh, appunto, io ogni tanto cambio apparecchio perché li voglio scaldare, adesso mi tocca a Ruiz. Che è fermo l'ombra di tempo, voglio far caricare i condensatori perché sennò si guasta anche quello. Beh, ma lo devi accendere, sennò è un casino. E già lo accendo ogni tanto. Almeno a farlo girare un po'. Anche se non li usi, no. Però te li accendi e li metti in funzione. Io mio, io mi sono mangiato. Accendo pure io già, adesso ne devo ce ne ho uno in garage, ce ne ho, ma lo devo salire, non c'è chi pegne, ne devo salire qua e provarlo per se funziona. E bruato, se no si rovina, non capito. Riprendi Tore. Hai detto un attimino che mi giù tu, un colpo di gozo che ne fanno più. Ma ti mi chiamato, mi è giunto un sarrone, va a caridaglio. Ma noi che sei influenzato, no? Oh, allora che cosa mi ha dato, mi viene lo sternuto. Ma perché ti voti? No, perché non vorrei magari che dopo ci contagi l'influenza tramite il microfono qua, capito? Sì, c'è un microfono, esci. Oh, Giulia, che andiamo a tempo. Vai già, riprendi. No, sto facendo l'altro apparecchio. Sto facendo l'altro. Come sta andando? Ma va benissimo. Vabbè, sì. Questo qual è? Ruiz. Cava, Ruiz. Anda bene. Come radio, come va? Bene. Una bomba, già. Ola. Fighi positivi, è buono come apparecchio. Davvero, va benissimo, anche la radio, una bella modulazione. Se mi vale, ma qui ci mi vende. Ma cosa vendi? Io me l'avrei tenuto. Lo stavo dando a una persona, poi non lo faccio più. Ma, a parte non lo trovi più. Questo l'avevo pagato anche un meme, 2,70 mi era venuto con la spedizione. La mia dura. Ma quello cosa c'ha? Le bande laterali? Scappa. Non ha solo l'FM, tutto il resto ce l'ha, c'è le bande laterali, 40 canali AM e le bande laterali. Solo 40. Kappa. Quelli erano così quando sono usciti, definitivo. Riprendi Tore. Sì, a quello solo l'FM gli manca. Sì, vabbè. Io non faccio una presso, dico che sto. Questo altro apparecchio vuole. E vi l'ha già preso, vi l'ha già detto di no, io non vedo dopo. E ce l'ho appresso, ce l'ho. Che apparecchio è? Quello che ti avevo fatto vedere, il quadribanda. KK, è bello quello, eh. Ma l'ha già fatto rubrice e mi ha detto che lo vorrò mattessi. Ha detto, ti basta. Ma già tu l'avevi imparato, 900 euro. E vabbè, se te lo paga bene, è tutto. Lo gioco. Se me lo paga bene, dopo non la giro. Pigli un altro. Sì, questo, almeno questo c'ha anche 50 metri c'ha. Ho capito, sì, già lo conosco. E cosa? Se poi passo e mi sei finito, cosa posso? E te recupererai un altro. Hai ragione, Dopuro. Che preso. E vabbè. Sono male, sono contenendo in calmo. Ma dopo in definitiva cosa te ne fai? Se c'hai quello là, c'hai il K e il VU, va bene lo stesso, cosa te ne fai quadro in banda? Tanto vai da una parte o vai dall'altra, noi poi va vietato due apparecchi un pari, Oh, un apparecchio sempre devi far vietare. Ma dico, se lo vendi, ti tieni il VU e quell'altro, il K. Cioè cosa quadribanda, diciamo che è più pratico, però io preferisco sempre le radio separate. Sì, quello sì, però me lo sto tenendo un po' a lungo, se non si stufa vuol dire che già si è arrangiato. Il problema è sempre quello, capito? Invece con le radio separate ascolti in uno e parli con l'altro, invece chi cosa fai? Parli con lui e con l'altro non puoi ascoltare. Invece con le radio separate lo puoi fare, con quello lì non lo puoi fare. Sì, vabbè. Già. Già me lo sto tenendo calmo a quello lì. Non c'è così come una città. Io c'ho il ricevitore e ascolto tutto, capito? Con quello che c'ho io, il ricevitore. Aspetta, che forse del ricevitore ne ho buscato uno. E mi ha detto da andare a fare affidi a Miro, però ha detto dammi un tempo di organizzarmi prima. Devo fare un po' credo di carriera, devo fare. Ecco per me, dai, che provo a fare una cosa. Io vi saluto, faccio il correttino da portare giù il cane. Dai. Ciao Tore, ciao Mombolo e anche a Tore, a Franco. Ciao Gianni, buon correttino, buon tutto e ci ascoltare il prossimo, è buona carica. Sì, in definitiva Tore così. Vabbè, no, io già ce l'ho il ricevitore, non me ne faccio niente, tutto lì. Vai, To. Sì, Anto, ma tu chiudendo stai? E anche Antonio ha chiuso allora. Ci risentiamo alle prossime, Antonio. Va benissimo. Fra, no, mi ha detto di scendere a prendermelo, mi ha detto lasciami il tempo di organizzarmi. E mi scendo un giorno. Siccome abita in un paese e bisogna fare un po' credo di carriera, bisogna fare, ecco cosa è, a meno che non lo dà a quello che ho al secondo piano, perché scende con il fuma e ho detto dallo a lui e un giorno passo al pullman a prendermelo. Beh, tu non puoi scendere, ti organizzi una mattina, scendi e te lo prendi. Ma cos'è, stazione base o di quelli piccoli? No, stazione base è manno, catta, è un bel manno, come può essere un Kenwood di quelli grandi, è al ricevitore, è bello, vuole, mi ha detto che era dentro la scatola, ce l'ha, ha una parte, ha detto che non se ne va di nulla, ha detto, allora dallo quando scende a quello che abita nel mio palazzo, lo dai a lui, e ce lo porta su con il pullman. Me ne arriga a casa, me ne arriga. Sei lontano, come se non ci riesci tu a scenderci. Sono 115 km andare, 115 a tornare. Che cazzo? E in via Urbia? No, prima di arrivare a Nuoro, mi pare che sia a Cosu, a Uscheri, mi pare che è. Uscheri, ma di tu Uscheri. Uscheri prima di arrivare a Nuoro. Uscheri sono 50 km. Oh, Uscheri, quanti cazzo di già, mai zitta. Ma prima di arrivare a Nuoro, che c'è il bivio, fai se no 2 km dalla strada, ancora fai 2 chilometri e c'è lui, cioè, perché abita in campagna, abita. Ma vabbè, Ottana. Mi pare che sia prima di Ottana, mi pare che sia, al paese non ci arriva, rimane fuori dal paese, e mi pare che dentro, io mi sono andato una volta, mi sono andato da Edo, che fai, arrivi prima del ponte di Ottana, che c'è un ponte sopra, si scende, scendi, fai a destra e fai un chilometro, mi vai, fai in campagna, stai in campagna e poi vedo. Ho capito più o meno dove dai. Marisia, vicino a Ottana, Marisia, perché al paese non ci arrivi. Allora, sceso, il giorno mi ha invitato a pranzo, buru, su Parati Chivi, e ho fatto vedere la stazione, poi sono rimasto lì fino alle 3:30, poi sono andato via perché lui è dovuto andare via per portare il bestiame col camion. Era un coso, non lo so, quindi si era appoggiato, boh. Ma cos'era, radioamatore per caso, o CB? Un radioamatore, è un radioamatore, però no, è isolato, Io l'altra volta l'ho sentito, la radio l'ho sentito, e lui, siccome porta, c'ha il camion e porta il bestiame, porta da una parte all'altra, il bestiame del padre, e lo porta sempre di coso. Anzi, domani posso andare a me, forse vado qua domani, mi fra. Va, la bella giornata di oggi, domani più oggi. Ma io ho visto le previsioni praticamente che hanno dato venerdì, sabato e domenica pioggia. Sì, ha messo così, ha messo. Vabbè, fra, io mi devo pigliare a Bastiglia. Quindi io già dimentichi. Ci risentiamo alle prossime, fra. Se tutto va bene. Pigliato, dai, intanto io sto seguendo un corso sul computer. Va bene, dai, ti saluto, buon carica con tutto, saluto a casa e saluto eventuali SNPVL che sono in ascolto. Per me QRT e ce la riascolto alle prossime. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao fra. Ciao signori ascoltoni, ok. Ciao, ciao. Ciao a tutti e due, alle prossime, buonanotte. Ciao Natalia, anche io sto chiudendo, dai, che sto facendo alcune cosette qua. Se ce la faccio ti faccio quella commissione, capito? Ciao, buonanotte. Ciao, domani ti vado a pigliare un cherosene. Non si intendi, no? Che domani devo andare a prendere il cherosene. Cava. Le nostre stimili.